Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10 e 7 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini. Si comincia col riposo del guerriero rotocalco di Radio 24 che vi accompagna come sempre fino a mezzogiorno. La prima cosa che vi dico è il modo per raggiungere il riposo del guerriero, l'indirizzo di posta elettronica che è guerriero@radio24.it. I vostri sms e i messaggi al 349-238-6666 e poi il numero verde, lo sapete, perché alle 11.30 si gioca col mistero in 24 minuti, la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere sulla feltrinelli.it, ammesso però che riusciate a risolvere il mistero. La risposta può essere una notizia della settimana oppure un personaggio conosciuto e per arrivare alla risposta corretta bisogna ascoltare degli indizi. Il primo indizio l'abbiamo già fatto sentire in questi giorni nel promo, lo trovate anche sul nostro sito che è www.radio24.it musica ascolterete, più indizi ascolterete, più il premio si abbasserà. Il numero verde, eccolo qua per partecipare, che è la cosa più importante, 800240024. Oggi do i numeri, lo faccio per mille ragioni, perché l'ora legale è tornata a essere solare e il dibattito tra ieri sera e oggi è stato quello di non capire più gli orologi come si comporteranno, perché una volta avevamo tutti orologi manuali per cui molto serenamente uno andava a dormire impostando l'ora già corretta, quindi con l'ora in meno o in più secondo ora solare, ora legale, e andava bello tranquillo a dormire. Oggi no, perché tu non sai più se il tuo orologio che si collega direttamente con Francoforte si regolerà, perché dipende. Quando è nuvoloso, per esempio, il segnale arriva più debole e quindi è più difficile che si autoaggiorni. Il tuo telefonino è impostato correttamente, per cui poi si autoregolerà o no? Magari uno ha disattivato, per esempio, la funzione quella autonoma, appunto di correzione autonoma dell'ora legale. Altri non ce l'hanno affatto, altri sono integrati con il computer, eccetera. Insomma, uno non sa più che cosa fare, sta sveglio tutta la notte in attesa poi che questa sveglia squilli o meno. E questa era un po' la discussione. E allora tutto ci fa pensare a quanto in qualche modo la tecnologia e la scienza e ci possa veramente venire incontro, invece quando qualche volta l'analogico ancora ci permette di dormire anche sonni più sereni. Ma proprio perché, insomma, io sono uno di quelli che guarda molto al futuro, anzi il passato già me lo sono scordato, io vedo sempre quello che c'è oltre e mi aspetto sempre grandi cose. Oggi parliamo di scienza e tecnologia. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. E certo, non sono proprio il tipo di persona che fa degli orari normali, anche questa scienza mi domando se serva a qualcosa o meno, non lo capisco neanch'io, ma in fondo è il mio lavoro. Così racconta il protagonista di questa straordinaria canzone di Elton John, che è Rockman, datata 1972. Partiamo proprio da lui per passare al Festival della Scienza che c'è a Genova fino al 7 novembre. Federico Pedrocchi, ciao, buona domenica. Ciao Stefano. Allora, là ci siete perché avvengono tante cose fino al 7 novembre a Genova, appunto, durante il Festival della Scienza, e anche la possibilità non solo di capire, ma anche di provare, di sperimentare. Assolutamente, sono 300 gli appuntamenti che ci sono durante il Festival della Scienza, che ormai è il più grosso Festival della Scienza, senz'altro in campo europeo, però insomma io ne ho visto anche altri, secondo me è allo stesso livello di quelli che si svolgono negli Stati Uniti, per esempio. Senti, sì, c'è tantissima roba. Ecco, certo. Beh, immagino, anche perché insomma la scienza davvero dà tantissimi spunti. Io volevo capire, prima di dare la viabilità, Federico, se com'è l'atteggiamento delle persone che di scienza capiscono poco, cioè degli utenti normalissimi che magari sono semplicemente curiosi. Guarda, la formula vincente del festival è che prende tutti i pubblici, per cui hai degli appuntamenti anche per gente piuttosto acculturata nella scienza, però poi hai dei premi Nobel che, come dire, sono stati istruiti a parlare anche a nonne e nipotini, e devo dire che in linea di massima, insomma, spesso e volentieri ce la fanno, e anche bene. Ecco, anche perché appunto credo che la scienza incuriosisca veramente tutti, però il modo è sempre il come, cioè come si propone una cosa, come la si racconta, come la si fa tastare e provare con le proprie mani. Parleremo proprio di questo, ci sono tanti esperimenti scientifici, voi ne avete seguiti alcuni, poi nel corso anche del riposo del guerriero di oggi vi farò capire come la scienza è nelle case di tutti i giorni, nelle nostre case, e non ce ne rendiamo conto, anche se la usiamo quotidianamente, perché ecco. Parliamo di scienza in questa domenica del riposo del guerriero. Allora, Federico Pedrocchi, vogliamo cominciare con gli esperimenti o da dove partiamo? Dimmi tu. Io ti farei cominciare da quella che è stata un po' la star per l'apertura del festival, Nassim Nicholas Taleb, che è l'autore del saggio famoso Il Cigno Nero. 3 anni fa è stato il saggio più venduto negli Stati Uniti, ha venduto diversi milioni di copie in tutto il mondo. Ed è questo saggio che, beh, allora, cigno nero che cosa significa? La metafora è presto detta. In Europa, ecco, in tutto il mondo, fino al 1600 si pensava che i cigni fossero solo bianchi, poi improvvisamente si scopre l'Australia e là si trova un cigno nero. Qual è appunto la metafora? Allora è l'improbabile, la cosa assolutamente impensabile all'interno di una normalità. La metafora che usa Taleb è tutta contro gli economisti, Stefano, questa qui ce l'ha a morte con gli economisti e con le loro previsioni. Perché? Perché dice che si vanno a fare delle previsioni su un territorio che è altamente improbabile, non dominabile, non scrutabile, quindi bisognerebbe essere estremamente prudenti. Lui ha scritto un secondo testo, Robustezza e fragilità, è un po' il testo di risposta a tutte le polemiche che ha sollevato il cigno nero. Ecco, ascoltiamo un attimo un passaggio e poi dopo ti dico, lui parla in inglese, ti dico un po' la sostanza delle cose che ha detto Taleb. So Mother Nature builds humans in a certain way. Exactly the opposite of how a human will build a human, or how an economist will build a human. Ecco, Madre Natura ha fatto l'uomo, ecco, in un certo modo. Ecco. In un certo modo, che è sostanzialmente esattamente l'opposto di quello che, per esempio, usano gli economisti per guardare il mondo. Lui ha detto, dicevo, se voi siete nati a Genova, e allora cosa c'è di curioso che avete? Beh, avete due occhi, no? Avete due polmoni, avete due reni. Per dire che tutti noi siamo fatti così. Sì. Un economista cosa direbbe? Oh, il fatto c'è, ove spreco due occhi, ne basta uno, i reni anche, ne basta uno, eppure un polmone, ne basta uno. In effetti, poi sappiamo che ci sono esseri umani per varie nature, purtroppo. Ah beh, ho capito, patologico. Però sai, con un occhio solo non vedi la profondità, tanto per dirne una. Ecco, per esempio. Sì. Ecco, allora lui dice la vera robustezza è quella della ridondanza, è quella di prevedere molte più possibilità e non pensare che l'efficienza stia appunto nell'avere un occhio, un rene, un polmone solo. Certo. È un attacco durissimo. Come è stato accolto? Come è stato accolto dal pubblico? Beh, direi applausi fragorosi, anche per il periodo in cui viviamo, in cui effettivamente quando uno parla di previsioni economiche non azzeccate, le orecchie sono molto sensibili, no? Certo, è vero, ci sono tanti tipi di previsioni che non si riescono ad azzeccare, Federico. Allora, andiamo avanti. Perché poi, sì, direi di sì, perché poi, anzi, io invito le persone che possono riuscire ad andare a Genova fino al 7 novembre ad andare alla Festa della Scienza, proprio perché ci sono molte possibilità di provare con mano, ecco, cosa significa la parola scienza e avere gli esperimenti così, provarli, sentirli. Allora, provare e con mano sono proprio due esempi, una frase giustissima che tu hai detto. Alla Festa della Scienza, per la prima volta ci siamo anche noi, come che presentiamo qualcosa, come Moebius, in collaborazione con il mensile di scienza Newton. Sì. Abbiamo uno stand, uno spazio all'interno di Incredibile Enel, che è questo stendone di 800 metri quadri, in cui facciamo degli esperimenti che servono a capire una parte del funzionamento della mente. Allora, io so perfettamente come è fatto lo studio, no? Lì dove stai trasmettendo. Sì, certo. Tu lì hai davanti un tre monitor, una tastiera, perché con questi monitor si può andare in rete, e c'hai un mouse. Se tu adesso mettessi la mano sul mouse, ma io questo mouse te l'avessi messo dentro una scatolotta che ti inverte le cose, cioè la tua destra diventa la sinistra, ecco, allora, sentiamo. Abbiamo intervistato un bambino a cui abbiamo fatto un gioco del genere invece che con la scatola, mettendogli degli occhiali che gli invertono le cose. Sentiamo. Ho indossato gli occhiali e vedevo che la penna andava verso destra, ma in realtà era più a sinistra. Quindi ho cercato di andare verso sinistra, ma continuavo a sbagliare. Poi ho tolto gli occhiali e vedevo che andavo più a sinistra, perché ero abituato ad andare verso destra. La penna era a destra e non a sinistra, perché gli occhiali svoltavano da una parte opposta. Gli occhiali svoltavano. Certo, gli occhiali svoltavano dalla parte opposta, è bello, immagino. Che è una bellissima frase. Degli occhiali con le rotelle. Sì, esatto. C'è anche un papà del bambino. Invito tutti, anche te quindi, ad ascoltare questa brevissima registrazione per quello che tenta di dire, e poi dopo ti spiego perché. Cos'è successo? Certo, certo, sentiamo. Più che altro mi hanno ingannato, ossia hanno nascosto una mano e credo alla fine il fatto che tu vedi qualcosa ma non lo percepisci fisicamente sulla mano, e quindi è una cosa molto strana. Hanno nascosto una mano, la prima cosa che vedi è che c'è uno specchio e quindi ti sembra di vedere l'altra mano che è nascosta. Muovendo questa mano e non l'altra, vedi che finalmente anche l'altra si muove. L'occhio inganna in questo caso, qualcosa di sensoriale che è una cosa e poi il visivo è diverso e quindi non capisci effettivamente cosa sta succedendo. Ecco, non abbiamo capito neanche noi, per la verità, quindi non è che non ha capito lui. La cosa singolare è che se intervisti le persone che sono passate attraverso l'esperimento, la loro descrizione è estremamente confusa, perché la sensazione che si portano appresso dopo l'esperimento è esattamente questa. E gli esperimenti che noi facciamo in pratica che cosa cercano di far vedere? Sì. E cioè che tutti i nostri movimenti, tutte le nostre azioni, in realtà, anche quando sono molto specifiche, tocchiamo con le dita un mouse, in realtà tutti i nostri sensi sono implicati. Se io cambio qualcosa in quello della vista, tu non sai più usare le mani, capisci? Certo, certo. Noi facciamo questi... Dicevi, scusa? No, dicevo, stavo capendo, ascoltando, cercare anche di sperimentare io qua da solo. Ti porterò lo scatolotto da Genova, è molto semplice, si può mettere lì in studio. E certo, e provarlo. Io ti ringrazio, tra l'altro ringrazio gli ascoltatori che così volessero provare direttamente lì ad andare al Festival della Scienza, ripeto, fino al 7 novembre a Genova, poi c'è Moebius la replica questa sera alle 23, dove penso che si parli proprio anche di queste cose, e poi invece la puntata nuova sabato prossimo, come ogni sabato, alle 20. Grazie Federico. Ciao, Stefano. Grazie, grazie, buona giornata, perché voi siete impegnati lì con tutto lo staff, e già qualcuno in un film molto famoso aveva tentato un esperimento e ce l'aveva fatta. Io solo sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita, ma che anche di più, io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente la materia inanimata! Sì! in effetti ce l'ha fatta, avete riconosciuto sicuramente Frankenstein Junior. Emiliano Ricci, buona domenica. Sì, buona domenica a voi, buongiorno. Buongiorno, intanto la tecnologia fa cilecca, io... Sì, me ne sono accorto. Ma anche noi ce ne siamo accorti proprio con quel telefono, abbiamo sempre problemi. Allora, con te... Davvero, comunque detto questo, non volevo fare una polemica, ma purtroppo è così, poi vado in ansia perché con gli ospiti, soprattutto questo. Intanto Emiliano Ricci è un fisico e ti ringrazio per aver partecipato. Hai scritto un libro che io trovo straordinario, semplicemente perché a me piacciono queste cose, ma vorrei riuscire a farle amare anche agli ascoltatori. Il libro si intitola La fisica in casa, viaggio stanza per stanza fra fenomeni inaspettati e ingegnose scoperte, edito da Giunti. Perché la fisica davvero la ritroviamo quotidianamente nelle nostre case e appunto in tutte le stanze senza rendercene conto, partendo dalla cucina quando abbiamo a che fare con qualcosa da tagliare, per esempio il coltello. Sì. Beh, allora, prima del mio intervento intanto ringrazio voi di ospitarmi per presentare il libro. Parlavate appunto del Festival della Scienza, ma in realtà noi la scienza ce l'abbiamo, la sperimentiamo quotidianamente in tutti gli ambienti. Ma non ce ne rendiamo mica conto. Senza rendercene probabilmente conto, perché per noi a questo punto tutte le pratiche che facciamo, sia in casa che fuori casa, sono sostanzialmente una... delle azioni che facciamo verso una scatola nera, cioè senza renderci conto di tutti quei processi fisici, chimici e di vario genere che avvengono al loro interno, appunto dal coltello che in realtà sostanzialmente è una leva, senza che noi appunto, si debba necessariamente conoscere la fisica per usarlo, ma perché sappiamo benissimo che il coltello dobbiamo affilarlo il più possibile. Dobbiamo capire perché affilarlo, però, perché vedi, se non lo capiamo, alla fine ce ne freghiamo, cioè, ma sì, fa niente, tanto taglia lo stesso, e no, cambia tutto, perché dobbiamo cambiare la pressione e poi dobbiamo fare più forza. Esattamente, è un po' il ragionamento del filo del coltello. Il ragionamento inverso che si fa per esempio con le zampe dei cammelli o con i cingoli dei carri armati. Perché? Perché noi non vogliamo, il cammello non vuole affondare nella sabbia. Certo. Quindi che cosa fa il piede del cammello, la zampa del cammello? Quando poggia sulla sabbia si allarga il più possibile, di modo che praticamente il peso del cammello, che è la forza che poggia sulle zampe, sia distribuita su una superficie più grande, ampia, cioè la certo. superficie della pianta della zampa. Viceversa, quando usiamo il coltello vogliamo che usare la minor forza possibile per poter entrare nel pane, nella carne, in quello che vogliamo. Allora occorre che il filo, cioè che la superficie del coltello che taglia, la parte che taglia, sia la più sottile possibile, perché di modo che possiamo usare una forza molto minore rispetto a quando si ha una superficie maggiore e quindi siamo costretti a premere con maggiore forza. Certo, senza magari poi ottenere neanche il risultato rovinando quello che stiamo tagliando. Assolutamente, esattamente. L'esperienza più frustrante, probabilmente ognuno di noi l'ha sperimentata, è quello di provare a tagliare il pane con il coltello messo dalla parte sbagliata. Ci rendiamo conto, dobbiamo fare forza, roviniamo anche la lo schiacciamo tutto, altro che lo tagliamo. E questo vale anche per le forbici, perché le forbici immancabilmente non si pensa che debbano essere affilate, perché tutti credono che bastino le due lame, in realtà no, devono essere, perché sono come due coltelli che si intrecciano. Esatto, quindi il principio è lo stesso. E fra l'altro fortunatamente le forbici sono una splendida leva vantaggiosa, dove per vantaggiosa si intende che praticamente si ha il fulcro, che è appunto la vite nel mezzo, sì, alle due lame, che è precisa nel mezzo fra la forza resistente, che è quella che dobbiamo in qualche modo tagliare, quindi la carta o qualunque altro oggetto che si voglia tagliare, e la forza invece applicata, che è quella data dalle nostre dita. Ecco, anche in questo caso, a volte ci capita di dire ma mi fanno male le dita dopo aver tagliato questo pezzo di cartone. Ecco, se le lame delle forbici fossero state affilate, probabilmente questo non sarebbe successo. Sono con Emiliano Ricci, fisico, autore della Fisica in Casa. Stiamo cercando di capire come la fisica si possa trovare in tutte le stanze del nostro appartamento. Allora, appunto, chiedevano gli ascoltatori come funziona invece il coltello a seghetto. Sì, il coltello a segreto è sostanzialmente una variazione del coltello, comunque a filo lineare. La seghettatura serve ad aiutare in qualche maniera la penetrazione della lama all'interno del materiale, quindi la si usa nel caso in cui il materiale con cui si ha a che fare sia particolarmente resistente. Però anche nella circostanza del coltello a seghetto, dove come dire, il movimento in avanti e indietro che si fa appunto con tipicamente con quel tipo di coltello serve semplicemente ad aiutare la penetrazione del filo all'interno, perché un coltello tipicamente se fosse veramente fatto affilato perfettamente, mi vengono in mente alcune pubblicità di qualche tempo fa di coltelli fatte in televisione, il coltello potrebbe anche tagliare senza nemmeno fare il movimento di seghettatura. Certo. Cioè, noi potremmo tranquillamente affondarlo più lentamente e il coltello dovrebbe essere in grado di penetrare il materiale. Ecco, quando si va a mangiare il sushi, per esempio, questa cosa la si deve notare molto, perché infatti, se non funzionasse così non sarebbe un buon ristorante giapponese. Allora, passiamo invece in camera da letto, dove la cosa che mi viene così più spontaneo chiedere è quella dove dormiamo, ovvero il materasso a molle. Sì, certo. Beh, qui si entra in un campo molto interessante, molto vasto, che è quello della fisica dei materiali, e nella fattispecie quando si parla del materasso si parla di una proprietà dei materiali solidi che è l'elasticità. Noi siamo in qualche maniera legati all'elasticità in tante circostanze, anche quando giochiamo, giochiamo a palla o in qualche altro con qualche altro tipo di gioco in cui ci sono implicati dei rimbalzi, uno dei fattori rilevanti del gioco è legato appunto all'elasticità del materiale. Ecco, nel materasso noi giochiamo su questo, su quali sono i materiali che lo compongono, in particolare possono essere le molle, le doghe, il lattice e cose del genere, e a seconda del tipo di materiale si ha una risposta elastica diversa e quindi si ha un modo diverso di modellarsi del materasso sotto il nostro peso. E quindi anche di dormire. Perché e quindi alla anche fine... di dormire, naturalmente. Senti, mi curiosisce, scusa, il fatto che molti ascoltatori stiano scrivendo cose divertenti perché hanno veramente molte curiosità. Mi fa piacere. Te ne leggo un'altra. Federico scrive: la fisica serve anche in bagno, per esempio per lo scarico dell'acqua. Allora, intanto ci spostiamo in un'altra sala, che è il bagno, perché nel bagno ce ne sono tante, poi te ne chiedo una io che mi fa molto ridere. Ma sì, cominciamo con lo scarico del bagno, va? Lì funzionerà. Beh, con la... sì, lì è un... qui stiamo ragionando appunto di idrodinamica. Parliamo della cassetta, ecco, per intenderci. Parliamo della cassetta e della fantastica invenzione del sifone. Esatto. Il sifone è appunto una tecnica inventata dai fisici che permette di scaricare l'acqua appunto giocando sulle differenze di quota e quindi di pressione dell'acqua a due livelli diversi. Quindi quando noi scarichiamo la cassetta, quello che succede è che l'acqua che proviene da un'altezza maggiore rispetto all'uscita, all'imboccatura di uscita dell'acqua, arriva giù sotto pressione sostanzialmente della gravità, non è che c'è una pompa dietro che la butta giù a pressione. No, infatti deve essere messa in alto per questo motivo. Quindi cade solo per gravità, certo, sostanzialmente, quindi solo grazie alla forza di gravità. Quindi più è in alto la cassetta, maggiore è la pressione con cui arriva l'acqua poi l'acqua nel water, nello scarico, sì. A quel punto che cosa succede? Dietro il water c'è un tubo che fa una U rovesciata, quindi sale un po' e poi scende giù. Quella U rovesciata a che cosa serve? Serve a sfruttare il principio dei vasi comunicanti sostanzialmente, perché quando noi abbiamo finito lo scarico, un po' di acqua, vedete, rimane sempre in fondo. Bene, questo implica che anche dietro la parte finale della cassetta, del water, c'è un po' d'acqua. Quell'acqua che fa sì che tappi funge proprio da tappo, sì, al tubo che porta poi nel perché non torni tutto indietro, in insomma, modo questo non ci è sia l'odore cattivo. È certo, praticamente quello è il tappo naturale dato dall'acqua giocato sui vasi comunicanti che impedisce agli odori cattivi di risalire. E che hanno fatto in modo che il marketing sfruttasse questa forma per proporre anche i propri prodotti per pulire il bagno. Esattamente. Io chiuderei questa, credo molto interessante, con conversazione anche divertente, restando sempre in bagno, con un gioco che è quello del miscelatore, che non riesce mai a miscelare l'acqua come vorremmo, ma in realtà ci sono diversi principi, fra cui anche la nostra capacità di adattarci a una temperatura diversa, che non è così immediata. Esatto, sì, ma qui ci sono anche, entra in gioco anche la psicologia. Prima dell'intervento parlavate dell'inganno dei sensi, no? con Fedeocchi. Effettivamente qui c'è un fattore legato alla nostra capacità di percepire la variazione di temperatura. Questo perché? Perché in realtà se noi mettiamo le mani in una bacinella di acqua ghiacciata dopo averle tenute nell'acqua calda, la sentiamo meno ghiacciata di quello che è e viceversa. Allora che facciamo? Quando andiamo con... continuiamo a spostare la leva, in poche parole. Con il miscelatore, sì. Che cosa succede? Lì c'era una bellissima canzone di Giorgio Gaber, lo shampoo, sì. Acqua fredda, calda, giusta, che è praticamente un legato al il miscelatore. A cosa serve sostanzialmente? Serve a far passare da due tubi convergenti un po' di acqua fredda e un po' di acqua calda. Tipicamente quando i due corpi, uno a una certa temperatura più bassa e uno a una certa temperatura più alta, si incontrano, entrano in contatto, la temperatura che raggiungono è la media fra le due temperature, certo. Quindi si raggiunge quello che è l'equilibrio termico. E questo è quello che sperimentiamo, per esempio, quando misuriamo la febbre. Il termometro indica non la nostra temperatura, indica la propria temperatura, che per l'appunto, essendo stato a contatto con noi, è anche la nostra. Allora, certo. Il contatto fra le due masse di acqua, fredda e calda, dovrebbe portare a una temperatura media fra queste due. Però, ovviamente, ci sono dei tempi, come si può dire, di latenza fra quando si arriva l'acqua si miscela e quando in realtà la temperatura raggiunge l'equilibrio. E certo, per cui noi la sentiamo forse troppo calda e ne mettiamo un po' più di fredda. A quel punto non riesce ad arrivare a temperatura giusta, quindi diventa fredda e ci sembra troppo fredda, la mettiamo calda e continuando così la temperatura corretta non la torremo. Esattamente. Bisogna avere pazienza e basta. Sì, il trucco è quello, eventualmente prima di andare sotto la doccia, di farla scorrere per qualche secondo e giudicare con le mani, che sono uno strumento di una sensibilità estrema, quando effettivamente la temperatura ci sembra adeguata, giusta per infilarci completa con tutto il corpo sotto la doccia. Ecco, la fisica può essere veramente divertente, basta che sia raccontata e spiegata come ha fatto Emiliano Ricci. Io ti ringrazio molto. Grazie a voi. Così, se siete curiosi di capire cosa vi capita tutti i giorni fra le mani, non soltanto in casa, la fisica in casa. Emiliano Ricci, grazie ancora, ciao. Grazie. Tra l'altro mi spiace non riuscire a parlare con Monica Marelli, ma lo stesso Emiliano prima aveva anticipato, parlando proprio del cammello, il fatto che allargasse le zampe per non sprofondare nella sabbia, un libro intitolato La fisica del Bau, come baffi, denti e piume raccontano la scienza. Monica Marelli ha raccolto delle false, ovviamente, interviste a degli animali per spiegare proprio alcuni principi fisici molto interessanti, partendo per esempio dal gatto, dalla catarinfrangenza degli occhi del gatto, quindi come funziona, piuttosto che alla lucciola, come fa ad illuminarsi, per cui la combustione, e altri esperimenti che poi si trasformano in esperimenti veri e propri da fare con i vostri figli. Mi spiace non riuscire a essere così, non siamo riusciti ad averla contattata, però così sarebbe carino averla magari una prossima puntata e farci raccontare direttamente da lei queste interviste. E a proposito di animali, di bambini, di esperimenti, ecco una filastrocca. C'era una volta là, dalle parti di chissà, il paese dei bugiardi. In quel paese nessuno diceva la verità, non chiamavano col suo nome nemmeno la cicoria. La bugia era obbligatoria. Quando spuntava il sole, c'era subito uno pronto a dire «Che bel tramonto!». Di sera, se la luna faceva più chiaro di un faro, si lagnava la gente. «Ui boh, che notte bruna, non ci si vede niente!». Se ridevi ti compativano. «Poveraccio, peccato, che gli sarà mai capitato di male?». Se piangevi, «Che tipo originale, sempre allegro, sempre in festa, deve avere i milioni nella testa!». Chiamavano acqua al vino, seggiola al tavolino e tutte le parole le rovesciavano per benino. Fare diverso non era permesso, ma c'erano tanto abituati che si capivano lo stesso. Un giorno in quel paese capitò a un povero ometto che il codice dei bugiardi non l'aveva mai letto e senza tanti riguardi se ne andava intorno chiamando giorno il giorno e pera la pera e non diceva una parola che non fosse vera. Dall'oggi al domani lo fecero pigliare dall'acchiappacani e chiudere al manicomio. È matto dalle gare, dice sempre la verità. Ma no, ma via, ma va. Parola d'onore, è un caso interessante. Verranno da distante 500 e un professore per studiargli il cervello. La strana malattia fu descritta in 33 puntate sulla Gazzetta della Bugia. Infine, per contentare la curiosità popolare, l'uomo che diceva la verità fu esposto a pagamento nel giardino zoologico, anche quel nome avevano rovesciato, in una gabbia di cemento armato. Figurarsi la ressa, ma questo non interessa. Cosa più sbalorditiva, la malattia si rivelò infettiva e un po' alla volta in tutta la città si diffuse il bacillo della verità. Dottori, poliziotti, autorità tentarono il possibile per frenare l'epidemia. Ma che? Niente da fare. Dal più vecchio al più piccolino, la gente ormai diceva pane al pane, vino al vino, bianco al bianco, nero al nero. Liberò il prigioniero, lo elesse presidente e chi non mi crede non ha capito niente. Straordinario Gianni Rodari, una poesia che forse ha poco a che fare con la scienza, ma ha a che fare con la verità delle cose. E Pietro Greco, buona domenica, grazie. Buongiorno a tutti. Pietro Greco è giornalista, scientifico e scrittore, ha pubblicato un libro che io amo moltissimo, c'è un motivo, si intitola L'universo a dondolo, la scienza nell'opera di Gianni Rodari. Forse perché io sono nato con le filastrocche di Gianni Rodari e le favole al telefono, e amo moltissimo questo scrittore, e tu dici che secondo te va annoverato come un grandissimo della letteratura italiana del XX secolo, e a volte questo non pare che non sia. Insomma. Certo, Gianni Rodari è uno dei grandi della storia della letteratura del XX secolo, perché con Collodi è il più grande della letteratura per l'infanzia, ma proprio come Collodi. Collodi era riconosciuto da Croce come l'unico scrittore per l'infanzia in grado di appartenere al pantheon della grande letteratura. Ecco, Gianni Rodari vi appartiene anche, a mio avviso, a quel ristretto numero di grandissimi della letteratura italiana che hanno, come diceva Calvino, una vocazione profonda per la scienza e per la filosofia naturale. Ecco, lui la scienza, esatto, lui la scienza l'ha inserita tantissimo nelle sue filastrocche, nei suoi racconti, la vedeva, la amava e l'ha raccontata in un modo semplicissimo. Sì, lui l'ha raccontata in un modo molto semplice. La filastrocca che è stata declamata prima, peraltro magistralmente, molto bella e molto suggestiva. Alessandro De Luca, ringrazio. Era una piccola apologia della scienza e della razionalità, perché lo scienziato cosa fa? Cerca di dare pane al pane. C'è una risposta, chiaro, certo. Il cielo di Vienna è lo stesso preciso che c'è a Milano, a Carpi e a Treviso. Beata la nuvola viennese o italiana che in cielo va e viene e non paga dogana. Ecco, questo per dire che la scienza era inserita anche per raccontare la nostra vita quotidiana, anche il nostro comportamento, quindi non soltanto quello scientifico appunto, ma anche quello del... L'universalismo, ci sono tanti temi, ci sono tutti i temi della scienza, i valori della scienza che Gianni Rodari propone in mille modi, ma una cosa mi ha colpito molto, diciamo, ed è il motivo per cui ho scritto questo libro, dopo aver letto le favole e le filastrocche di Rodari ai miei figli, ed è il fatto che lui a un certo punto sostiene: io scrivo per i bambini di oggi, astronauti di domani. Il libro, dalla prima pagina all'ultima, ma anche dall'ultima alla prima, è dedicato ai bambini di oggi, astronauti di domani. Stiamo parlando con Pietro Greco dell'universo a dondolo, ovvero la scienza nell'opera di Gianni Rodari. Allora, dicevi, ti ha colpito questa frase. Sai, ha colpito perché, come tutti i grandi, Gianni Rodari ha capito che c'era un cambiamento profondo in atto nella società, che faceva dei bambini di oggi, per cui lui scrive, dei bambini diversi, diciamo, da tutte le generazioni passate, cioè da me stesso, diceva Rodari, da mio padre, diciamo, da mio nonno e così via. E qual era la diversità? Che questi bambini, a differenza delle generazioni passate, vivranno in un mondo che è modellato, che è pieno di tecnologie e modellato, diciamo, sostanzialmente dalla scienza. L'astronauta non è altro che una metafora del mondo tecnologico, anzi ipertecnologico, che Rodari annuncia tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Lui se ne accorge per primo e comincia a raccontare questo mondo. In fondo, se c'è una differenza tra Collodi, al quale lui si riferisce sempre, e Rodari, è proprio questo: entrambi utilizzano lo strumento che i letterati, gli esperti chiamano del realismo magico, cioè raccontare la realtà delle cose attraverso l'apparente magia, la narrazione, una narrazione di tipo magico. Però mentre Pinocchio si muove nella società dell'Ottocento, che non è una società ancora ipertecnologizzata, Rodari capisce che i bambini per cui lui scrive sono bambini che vivranno in un mondo pieno di tecnologia, pieno di scienza, in quella che noi chiamiamo l'era della conoscenza. Esatto, e tra l'altro quindi in questo in qualche modo può essere definito uno scrittore di fantascienza. Infatti ha scritto sono anche delle cose. Sì, di fantascienza, ma di quella fantascienza realistica che ci aiuta certo. A immaginare il domani per cercare di governarlo. Diciamo. E raccontarlo anche in un modo diverso, per esempio. Raccontarlo in un modo divertentissimo. Io tra l'altro mi commuovo sempre quando leggo alcune delle sue cose e così mi incuriosisce anche come racconta ai bambini le cose da non fare, partendo poi sempre da un principio fisico. Alla domanda, per esempio, se è nato prima l'uovo o la gallina, lui risponde così, e in poche parole non risponde, risponde in un altro modo: io dall'uovo non mi muovo se non so che cosa trovo fuori dell'uscio del mio guscio. Un pulcin così pensò e nell'uscio si tappò tanto ben che soffocò. Ecco, alla fine quindi non copritevi troppo, non mettete la testa in un sacchetto perché potrebbe succedere come è successo al pulcino. Quindi anche un modo per insegnare. C'è una fra le tantissime filastrocche che ha scritto Gianni Rodari che tu ami in modo particolare per qualche ragione, più delle altre, difficile, lo so. Ma sai, è difficile scegliere, ma c'è una che mi ha molto colpita perché la ritengo straordinaria, ed è una lunga filastrocca sugli insiemi, in cui racconta, lui spiega con le sue parole, in rima, che cos'è un insieme, e leggendo quella filastrocca un bambino, ma anche un adulto, ne esce fuori, diciamo, con una concezione piena, totale, di che cos'è un insieme matematico. Straordinario. Anche perché non è tanto semplice da spiegare, riuscire a spiegarlo con una filastrocca vuol dire essere particolarmente bravi. E infatti ci vuole la bravura di un Rodari. Grazie davvero Pietro Greco, l'universo ad ondolo, la scienza nell'opera di Gianni Rodari. Ancora buona giornata. E allora io volevo intanto vi passare l'altro ospite, e per i papà che hanno magari una bambina leggervi questa filastrocca, sentito la stelle: se un giorno alle stelle si daranno nomi nuovi, io ne prenoto una vispa stellina a destra della luna per darle il nome della mia bambina. Astronomi e scienziati, poeti e scolari saranno obbligati a dire: come bella Paola la stella. E con questo passo ad Antonio Zamperla, perché di stelle in qualche modo parliamo. Antonio, buona giornata. Buongiorno. Allora, Pulse Developer dell'Antonio Zamperla S.P.A. Per me è un onore, dovrebbe essere per tutti gli italiani. Siete una società italiana d'eccellenza, presente in moltissime parti nel mondo, e vi occupate di costruzione di quelle che noi chiamiamo giostre, ecco, sarebbe invece, come le possiamo chiamare invece, attrazioni per parchi a tema. È giustissimo il nome giostre. Ecco, ci piace, meno male, perché sai, quelle cose non si sa mai come chiamare perché sembra di sminuirne il valore, invece non c'è assolutamente anche in questa parola. Fra l'altro tu hai il nome di tuo nonno, vero? Esatto, ecco. Sì, una tradizione che portiamo avanti. L'azienda ha quasi 45 anni, li compirà penso l'anno prossimo, e voi per studiare le attrazioni la fisica la dovete conoscere alla perfezione, immagino. Assolutamente sì, la fisica la dobbiamo conoscere non solo a perfezione, ma anche cercare di non far trasparire quello che sta dietro alla realizzazione di un'attrazione. Quindi il visitatore deve divertirsi, la persona deve divertirsi e deve estranearsi totalmente dal mondo. noi dobbiamo fare in maniera tale che la persona si diverta senza sapere che dietro comunque c'è una sicurezza pari, ad esempio, a quella del settore aeronautico. Certo. E infatti mi dicevi che addirittura con la NASA avete fatto una sorta di collaborazione. Abbiamo fatto una collaborazione con la NASA in quanto abbiamo sviluppato una montagna russa in cui le persone sono distese. Quindi per rendere sicura l'attrazione abbiamo dovuto naturalmente studiare l'applicazione della forza di gravità sul corpo disteso, cosa che normalmente non c'è, non viene studiata normalmente. Ecco, senti, quando ci si occupa di un roller coaster, quello che noi chiamiamo montagna russa per intenderci, la mia domanda è sempre quanto ci si spinge al limite? Perché ovviamente, come dicevi tu, l'utente si deve divertire, certo non deve star male. Ecco, tutti, magari molti non amano queste attrazioni o non le provano perché hanno paura di star male. In realtà questo non succede mai, proprio perché sono studiate in un certo modo. Ma quanto vi spingete al limite? E come fate per trovare questo limite, se c'è? Allora, innanzitutto lavoriamo con dei software di altissimo livello. Lavoriamo con software che utilizzano società come la Boeing, McDonnell Douglas, Ford. Sono software chiamati Adams e alla stessa maniera utilizziamo anche sempre degli altri software che realizzano i modelli finiti e quindi tutti quanti i calcoli cinematici e dinamici. Riusciamo già a livello di computer fondamentalmente a vedere quello che è la movimentazione e basandoci sullo studio dell'applicazione della forza gravitazionale sul corpo umano riusciamo a capire quale è il limite che si può dare di accelerazione ad una trazione. Dopodiché passiamo alla fase prototipale che vuol dire fondamentalmente la costruzione della trazione o giostra che si voglia. E quindi ha un costo pazzesco perché bisogna proprio farla, poi anche non investite tantissimo, immagino. In ricerca e sviluppo ogni anno investiamo quasi il 15% del fatturato. Certo. Però poi alla fine riuscite a avere anche attrazioni uniche al mondo e presenti anche in tutto il mondo, fra l'altro quella che dicevi tu sarà presente a Coney Island, quindi a New York, nel parco. E per chiudere io volevo anche così citare una cosa importante per voi, che è la tematizzazione, per voi e per i parchi ovviamente, nel senso che spesso le giostre vengono tematizzate e io ho visto ad esempio quelle di qui vicino c'è un posto chiamato Le Olandia, la Minitalia, con delle vostre giostre tematizzate invenzioni, diciamo così, di Leonardo da Vinci. È stato prima Leonardo a ispirarvi o prima vi siete ispirati voi e poi Leonardo l'avete preso in prestito? È una bella domanda, sembra un po' quella fatta prima. Nell'uovo la gallina, beh certo, gallina, mi piaceva esatto. Per questo. No, infatti, il concetto è questo. Cerchiamo comunque e sempre di applicare la nostra inventiva all'audience culturale in cui ci troviamo. Quindi Leolandia e Leonardo, certo, il genio per eccellenza italiano, trovava un'applicazione perfetta all'interno del parco, essendo anche il prezzo proprio vicino al parco di Leolandia dove c'è una delle opere di Leonardo. Abbiamo comunque preso quest'idea di tematizzazione l'abbiamo applicata a delle attrazioni. Ci sono le rapide di Leonardo, ad esempio, che sono una sorta di viaggio all'interno di un canale in cui si arriva in fondo, bagnandosi naturalmente. Certo, ma divertendosi. E creando questa tematizzazione proprio per cercare di portare la persona all'interno di un mondo fantastico. Certo, grazie. Continua il riposo del guerriero rotocalco domenicale di Radio 24. Oggi stiamo parlando di scienza. Io prima voglio ricordarvi il numero verde perché alle 11.30 giocheremo col mistero in 24 minuti. La possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su lafeltrinelli.it. Prenotatevi, il numero verde 800 24 00 24. Mi spiace per non poter rispondere ai tanti sms che sono arrivati che chiedevano curiosità proprio sulla fisica, ma a questo punto faremo un'altra puntata del riposo del guerriero proprio su questo argomento perché ha destato molta curiosità e vediamo come la scienza può entrare anche nella nostra quotidianità per quanto riguarda la salute. C'è l'inventore della biontologia, ovvero Henri Chenault. Henri Chenault, buona domenica. Stefano, buona domenica a tutti di voi, a tutti gli ascoltatori. Allora, vediamo un po' la scienza come può entrare negli istituti di ricerca come il tuo, nei posti dove è possibile capire come siamo fatti e magari anche darci una mano a migliorare noi stessi da un punto di vista fisico. Sì, noi ovviamente abbiamo più mesi per capire bene, per individualizzare. Attenzione, prima cosa, mai dimenticare la clinica prima, perché la clinica è fondamentale. L'apparecchio non possono capire tutta la clinica di un cliente. Dunque tutta l'interrogazione di un cliente, di un modo molto largo, va fatto e prende tempo. Però noi abbiamo a disposizione soprattutto una cosa che è molto interessante praticamente, che permette di capire la composizione del corpo, tutta la composizione del corpo. A livello delle ossa, a livello della massa muscolare, a livello dei grassi, dove sono localizzati, la qualità della circolazione e soprattutto una cosa che è fondamentale invecchiando, anche tutti i fattori vari di osteoporosi o di osteopenia, cioè i problemi che possiamo trovare a livello delle ossa. No? Quindi potete vedere com'è la composizione sì. del corpo, un po' alla CSI, insomma, una sorta. Sì. Ecco. È un scanner, una forma di scanner, ma sì. che dura poco tempo, fra l'altro perché è molto veloce. Maximum 7-8 minuti, no? Abbiamo un scanner e questo scanner ovviamente si fa valere di una quantità di parametri. Per esempio, sappiamo tutti che dell'età dei 20 anni, per dirti all'età dei 90 anni, poco a poco l'evoluzione della massa grassa dei tessuti è evolutiva e rimane dentro una media, cioè non possiamo pretendere di avere la stessa composizione corporea a 70 anni che quella che avevamo ovviamente a 20 anni. Certo. Per fattore ormonale, per tutta una quantità, la massa muscolare poco a poco ovviamente va sostituito della massa grassa e ovviamente anche la densità ossa può diminuire. No? Ecco, una macchina di questo genere perché ci è utile? Anzi, perché vi è utile? Allora, e poi di conseguenza di noi. Modo. Primo, per permetterci praticamente di avere un'evaluazione giusta a livello di dove è localizzata la massa grassa, perché la localizzazione della massa grassa è insidiosa, non esiste un tipo di grasso, esistono dei grassi ormonali e quello ovviamente dobbiamo dopo vedere l'analisi ormonale della persona, soprattutto a livello delle donne, esistono i grassi aglucidi, cioè quando la persona eccede dentro il dosaggio giornaliere la quantità di glucidi, cioè pasta, pane e zucchero che consuma, vanno localizzati differentemente. Dopo abbiamo anche i grassi da stress e abbiamo i grassi ovviamente perché quell'apparecchio lo dà. Immaginiamo che una persona ha un metabolismo di 1700 calorie, che non fa sforzo fisico e consuma tutti i giorni 2400 calorie. Allora automaticamente qui andiamo ad avere un eccedente che va a essere localizzato. No? Ecco, scusa, tu hai parlato di, mi incuriosiva questa cosa, di grassi dettati anche dallo stress. Sì. Ma una macchina di questo genere ci può dire se ne abbiamo di grassi di questo tipo? No, questa no, è un'altra macchina che oggi non andiamo a parlare, che permette di valutare praticamente... perché possiamo avere due tipi di stress, possiamo avere un stress fisico e un stress psichico. Che è quello più facile, no? Insomma, quello più comune, ecco, quello sì, psicologico. Sì, anche il stress fisico, anche il stress fisico oggi, perché la gente praticamente molto impegnata, i tempi di riposo non sono presi, non fanno sufficientemente attività fisica e ovviamente c'è un riscontro a livello dello stress. Però la cosa che è fondamentale praticamente qui dentro è che siamo in grado di valutare, per esempio, immediatamente anche con questo stesso scanner, per esempio la colonna vertebrale, no? Sì. I vari disturbi che possiamo avere a livello vertebrale, che sono fondamentali, o a livello delle cervicali, o a livello delle lombare, o a livello delle dorsali. Quindi però, con una scansione del corpo di questo genere avete più informazioni, esatto, che servono esatto. su più punti, ovviamente. Esatto. Per esempio, ti do un esempio, no? Sopra una persona praticamente che è nato, che ha 68 anni, oggi abbiamo visto praticamente che per dire la massa grassa, la massa magra rappresenta 50 kg sì. E con i tessuti 53 kg, che ha una massa grassa di 33 kg. Quindi pesa 80 e passa, insomma, voilà, il peso in che, totale. Ecco. Esattamente, in più possiamo sapere dove sono localizzati i grassi. Sì, ma 30 kg di massa grassa sono tantissimi, credo. Esatto, esatto. Lui deve praticamente, questa persona deve raggiungere alla sua età senza danneggiare, perché qui attento, senza danneggiare alla sua età la massa muscolare e la densità ossea, deve perdere praticamente, possiamo dire, alle 10 kg di massa grassa. Ecco, una domanda, scusami, sì. Tu dicevi che una macchina di questo genere riesce a localizzare anche i punti in cui la massa grassa si forma, oltre, sì, alla quantità. Sì. E seguendo una dieta di un certo tipo è possibile anche diminuire la massa grassa proprio in quei punti, oppure questo è molto più difficile? Ma, come detto prima, praticamente a livello di glucidi sappiamo che sono messo dentro la parte genoide di più, no? La genoide vuol dire dell'ombelico in giù, no? Invece la parte androide, che è quella dell'ombelico, che contiene il cuore fra l'altro, lei in generale sono dovuto a un rallentamento del metabolismo. Una persona che spende troppo poco calorie giornalieramente, perché anche qui a livello dell'apparecchio praticamente la stessa persona spende unicamente 1600 calorie al riposo. Dunque vuol dire che praticamente o fa attività fisica e aumenta il metabolismo, o vede il livello ormonale, se per caso non ha disturbi, per dirti, a livello della tiroide o a livello del surrenale, per vedere se il sistema ormonale è rallentato troppo. E quello che si può fare o non si può fare. Ecco, quindi con una macchina di questo genere comunque sia è più facile tenere sotto controllo anche una dieta se sta funzionando, quindi se si sta perdendo massa grassa nei punti dove si vuole e se la si sta effettivamente perdendo, perché il solo peso non ci dà nessuna informazione. Esattamente, per esempio noi quando questa gente ritorna da noi dopo 6 mesi, un anno, non lo so, noi possiamo confrontare praticamente per l'anno in un anno. Certo. Tutti i consigli che gli abbiamo dato siano stati fatti prima e quello che ha potuto modificare, quello è molto importante, che lui si rende conto praticamente di queste cose, perché a livello del peso praticamente senz'altro hai ovviamente il sottopeso che è dannoso, il peso normale che è preso sopra una popolazione media che non vuole mai dire niente fra l'altro, il sovrappeso e l'obesità. Certo. Dunque, esistono dei ranch praticamente che permette di delineare tutte queste cose e di intervenire di un modo concreto. Adeguatamente, chiaro. Harry, io ti ringrazio, se avete qualche curiosità vi dico il sito che è harrycheneau.com, oppure potete scrivere a guerriero@radio24.it. Harry, ci sentiamo prossimamente. Grazie Stefano. Parliamo ancora di esperimenti scientifici, grazie alla rete ce ne sono un sacco. Fabres, ciao, buona giornata, buona domenica. Ciao Stefano, buongiorno a tutti. Allora, cominciamo subito con le Mentos, perché penso sia l'esperimento più famoso del mondo. Internet e YouTube hanno mostrato tantissimi video e hanno fatto anche una gara, credo, no? Di tanta gente con le bicchiere di Coca-Cola e la Mentos all'interno. Sì, assolutamente, ti spiego innanzitutto come funziona un po' l'esperimento. Sì. No? Abbiamo bisogno di un pacchetto di Mentos e di una bottiglia di Coca-Cola, probabilmente da 2 litri, perché ovviamente c'è più liquido contenuto all'interno. Bisogna infilzare il tappo della Coca-Cola con un chiodo, diciamo, con un pezzo di ferro, all'interno del quale noi andiamo ad infilare le Mentos. A quel punto che facciamo? Richiudiamo con il tappo la bottiglia di Coca-Cola, aspettando che ci sia un effetto, diciamo, geyser. Sì. Vale a dire che la Coca-Cola esplode fuoriuscendo, facendo esplodere il tappo e facendo un geyser alto magari anche di addirittura di 20-30 metri. Addirittura così tanto, non l'ho mai visto. Assolutamente sì, ci sono anche degli esperimenti fatti da persone che dimostrano che la bottiglia riesce ad andare ad altezze assolutamente assurde e inimmaginabili. Quando nasce tutto? Il tutto nasce nel 1999, quando un professore di chimica dell'Università dell'Illinois di Chicago, Valerie Marek, sì, fa questo esperimento e lo presenta per la prima volta al David Letterman Show, famoso talk show americano in onda dal 93. Manda un bambino dove fa questo esperimento solamente con 2 bottiglie e prova a realizzare questi 2 geyser. Però ovviamente siamo distanti dagli anni di YouTube, visto che YouTube nascerà solamente 6 anni dopo. Che succede? Che nel frattempo, diciamo, in altre parti del mondo ci sono persone che fanno questi esperimenti, no? Perché comunque sia la voce inizia. Beh, certo, a poi girare. Uno si diverte, gli esperimenti si fanno volentieri, se poi non sono dannosi. Assolutamente. Finché arriva alla mente di 2 ragazzi, due scienziati, Fritz Grobe e Stephen Volz, che vivono nel Maine, nel nord-est degli Stati Uniti, che iniziano a fare degli esperimenti un po' più accurati, cioè iniziano a realizzare delle vere e proprie coreografie. fatte appunto con le bottiglie di Coca-Cola e con la Mentos. Iniziano a fare vari esperimenti, iniziano a presentare questi piccoli esperimenti in giro per i vari teatri del loro stato, della loro città di Buckfield, fino a che a un certo punto succede che realizzano l'esperimento numero 137, realizzato con ben 500 Mentos e 100 bottiglie di Diet Coke. Diet Coke perché loro dicono che rispetto alla Coca-Cola riesce ad avere una reazione chimica maggiore. Probabilmente per la questione dello zucchero, perché... Sì, probabilmente anche per questioni pubblicitarie. Sì. Magari anche, non lo so, esatto. Ma non lo so. E quindi che succede? Realizzano questa grandissima coreografia con queste 100 bottiglie, che è in qualche modo il primo video che va a finire su YouTube della Coca-Cola più Mentos. Il video, dal caricato nel giugno del 2006 a oggi, ha fatto realizzare qualcosa come circa 12 milioni di visualizzazioni. Esatto. Sono... Che succede? Che da quel punto in avanti la rete esplode. In che senso? Tutti quanti iniziano a provare vari esperimenti. Beh, certo. E adesso, infatti, tra tanti esperimenti, ce ne sono alcuni veramente curiosi. Ce ne sono alcuni veramente anche pericolosi. Ecco, ma quello dei popcorn, io non ci credo. Secondo me non funziona, non è vero. Ma no, quello è assolutamente, secondo me, è assolutamente falso. Cioè, mentre la parte della gola del geyser è vero, funziona, vero, certo. Ci sono vari esperimenti. Anche io provo a fare un piccolo esperimento, tra l'altro c'è uno divertentissimo fatto al Pincio a Roma, dove c'è un ragazzo che invece di fare il normale geyser agita prepotentemente la bottiglia fino a farla cadere a terra, e questa bottiglia si alza in volo veramente ad un'altezza. Ah, ho capito, come se fosse utilizza per la spinta. Senti, no, esatto. Dicevo, c'è un video dove si vedono delle persone con i telefonini, i cellulari, esatto, li fanno squillare con del semi di mais e poi questi scoppiano diventando dei popcorn, ma io non credo diventano che funzioni. Dei popcorn. Però ecco, a giudicare dalle doti attoriali delle persone presenti, esatto, non è vero. Del video, sembra tutto quanto palesemente fake. Ecco, invece senti, invece forse le 2000, cioè, quante ne servono? 2380 arance per ricaricare il telefonino? Quello dicono davvero, nel senso, 2380 arance tagliate in quattro parti, a cui si attaccano appunto dei catodi che vanno a collegarsi tutti quanti i fili di tutte le 2380 arance fino ad arrivare all'iPhone. E dicono che ho un l'iPhone. Telefonino qualunque adesso, perché al di là di tutto lo fanno vedere con l'iPhone. La carica è quella e vale per tutti. In fondo ci sono anche degli orologi che funzionano con le patate, no? Nello stesso, esatto, esattamente. C'è un altro esperimento che fa vedere come per esempio un cellulare possa ricaricarsi tramite il Gatorade. Adesso bisogna stare attenti alla verità, a quando si tratta di un esperimento vero o invece solo una mossa pubblicitaria per parlare di un prodotto, perché poi alla fine è lì che andiamo. Vi ricordo che è molto sottile. Certo, vi ricordo che Fable si occupa proprio di guerriglia marketing, per cui proprio di questo, anzi il suo sito è blogguerriglia.it, dove trovate anche i video dei quali stiamo parlando e non soltanto. Appunto, dicevo, cercare di sgamare dov'è la verità, il confine appunto fra verità ed esperimento di qualcuno a casa e invece poca verità e molto marketing di qualcuno che voglia pubblicizzare le marche. Intanto grazie Fable, adesso ci inventeremo qualcosa anche noi come esperimento da mettere su YouTube. Buona giornata, ciao. Ciao, sempre buona giornata. Parliamo di scienza ancora una volta, ma in un altro ambito, quello enogastronomico. Formaggio Montasio DOP, con il contributo della Regione Veneto. Vi presenta Il Gastronauta. Davide Paolini, buona domenica, ciao. Ciao, buona domenica. La scienza è entrata anche nell'enogastronomia, no? Ma è entrata e come? Però io credo che la scienza praticamente ci sia sempre stata, perché alcuni fenomeni in cucina avvenivano, solo che non erano letti dal punto di vista scientifico. Certo, succedevano e basta, magari qualcuno sicuramente li aveva introdotti senza sapere che erano dei fenomeni molto particolari. Negli ultimi anni la scienza è entrata perché ha cominciato a leggere questi fenomeni. Devo dire che soprattutto la tanto vituperata cucina molecolare, sì, anche gastronomia molecolare, è proprio servita a questo, a leggere questi fenomeni e a spiegarli dal punto di vista scientifico. È evidente che ne ha introdotti anche molti altri, sicuramente, però ci ha veramente aperto gli occhi su che cosa avvenivano, ad esempio perché diventava matta la maionese, è stata una delle cose che ho cominciato a spiegare, che magari generazioni di cuoche impazzivano, non sapevano perché. È la cosa più divertente del mondo, guarda, perché mi ricordo che mia madre era la preparava, che ma io mi divertivo a sbattere l'uomo, no? Mi diceva: non troppo, perché sennò poi impazzisce. E io impazzivo, perché in realtà non capivo che cosa significasse questo. Poi ogni tanto succedeva, purtroppo. Sì, solo che come al solito la scienza o certi fenomeni vengono a me visti come il diavolo, e magari sono etichettati come un qualcosa così di riprovevole. In realtà la scienza serve proprio a questo, a spiegare o a introdurre dei nuovi fenomeni. Ad esempio l'azoto liquido con cui sì, oggi ci sono molte gelaterie che fanno il gelato. Beh, è stato un apporto della scienza, se vogliamo. Poi può essere più o meno discutibile se questo gelato è migliore o peggiore dell'altro, o se non ha senso fare il gelato con l'azoto liquido. Questi sono altri motivi. Ad esempio anche il discorso del sottovuoto è stato importante, è stata un'introduzione, se vogliamo, tecnologica importante, perché salva molti piatti e salva molte materie prime dalla distruzione. Indubbiamente. Cioè, senti, l'abbattitore di cucina, cioè, sì, sono tutti fenomeni che piano piano stanno entrando e sicuramente sono delle cose molto utili. Tanti non ristoranti stellati lo usano, l'abbattitore, per esempio. No, io direi che tutti lo devono usare. No, esatto. Qui faccio una chiosa. Lo devono usare tutti coloro che servono pesce crudo, perché l'abbattitore serve per legge per abbattere il pesce crudo di quella temperatura che è necessaria, esatto, per evitare certi fenomeni molto salutistici, molto pericolosi per il nostro corpo. Quindi è obbligatorio, non solo non è che lo usano solamente i grandi ristoranti, lo devono usare tutti, comprese le pizzerie, comprese le trattorie, comprese le osterie. Ma non succede questo, però, non succede. Questa è quella che succede, dovrebbe succedere, perché se vogliono evitare certi fenomeni, oppure sicuramente congelano il pesce. Beh, perché un'altra soluzione è il pesce congelato, non ci sono dubbi. Diciamo che per continuare sulla scienza, sì, la scienza è entrata anche nel mondo del vino, dell'enologia, perché ci sono stati così degli sviluppi in questi ultimi anni importanti. Il controllo delle temperature, per esempio, è importante per non far salire l'acidità del vino, ma tante altre cose quindi sono diventate importanti. Ora, sulla scienza c'è anche un dibattito, si dice che i naturalisti del vino rifiutano la scienza, mentre loro sostengono che loro è una scienza ancestrale. Quindi è molto bello questo tipo di dibattito anche a livello culturale che sta avvenendo in questi ultimi anni. Ecco, tu hai un'opinione da questo punto di vista, te la sei fatta? Dal punto di vista ma io credo che sia, come posso dire, da ciechi rifiutare quello che viene di volta in volta scoperto che è importante, che serve a migliorare anche la nostra alimentazione. Certo. Io credo che sia veramente così, sia una cecità, insomma. Non vorrei tornare al tempo dei tayloristi, ma perché secondo me sono tempi bui. Bisogna accettare quello che è accettabile, non tutto è accettabile, ovviamente, perché quando avvengono delle modificazioni importanti e qui nascono dei dubbi. Io non vorrei tirar fuori ora il famoso dibattito sugli OGM, perché ci porterebbe molto lontano. Lo faremo poi, prima o poi, comunque in una puntata del Guerriero, lo faremo. Sì, però ci vuole molto tempo e ci vogliono persone molto competenti. Ormai se ne fa su questo una battaglia ideologica, ed è molto cieco fare una battaglia ideologica. Bisogna fare una battaglia scientifica, quindi sentire i pro e i contro dal punto di vista scientifico e non dal punto di vista ideologico. Assolutamente, questo è fondamentale, sicuramente. Quindi insomma ben venga la scienza, perché ci può soltanto aiutare. Io credo che la scienza venga e poi c'è la libertà dell'individuo di accettare certe cose o di respingerle, però non si può fermare la scienza, non si può fermare tanti fenomeni evolutivi che vanno avanti di ricerca e scientifici. Ecco, respingere ma non col pregiudizio, ovviamente. No, non respingere con pregiudizio, nel senso di lasciare andare avanti la ricerca e poi accettare o non accettare. Questo è un fatto di libero arbitrio nostro e che credo che nessuno ci possa mai negare. Certo no. Grazie Davide Paolini, buona domenica. A presto. Grazie davvero, buon appetito, anche perché immagino che è un po' presto, però si cominci a pensare a quello che si dovrà preparare tra un po'.